Lo sapevate che sta scritto nella Bibbia che è bene far celebrare le sante messe di suffragio per i nostri morti? L'abbiamo sentito in questo secondo libro dei Maccabei, capitolo 12. Vi dicevo l'altro giorno che i Maccabei, per non sottomettersi senza dire al potere politico e religioso degli occupanti, hanno reagito e hanno preso in mano persino le armi. Qui si parla che hanno fatto una battaglia e alcuni dei loro sono stati uccisi. Allora raccolgono delle offerte, le danno al tempio per far celebrare dei sacrifici in suffragio loro. Poi, fatta una colletta, dice il testo, con tanto a testa, li inviò a Gerusalemme perché fosse offerto un sacrificio per i peccati che avevano commesso. E perché hanno fatto questo? Perché erano sicuri che esisteva la risurrezione, se no sarebbe stato vano e superfluo pregare per i morti. Per questo, dice Giuda Maccabeo, fece celebrare un sacrificio di espiazione per i morti perché fossero assolti dai loro peccati. È quello che il popolo cristiano da sempre sta facendo, ma se va avanti così rischia di non fare più. Perché mentre chi ha una certa età ha imparato dai suoi genitori a far celebrare la messa per il papà, la mamma morto, il fratello oppure dei parenti morti, i nostri giovani, i nostri ragazzi lo stanno disimparando, come tante altre cose, come l'andare al cimitero, come le preghiere del mattino e della sera, che i nostri vecchi sapevano a memoria e oggi neanche quando si preparano a fare la prima comunione riescono a impararli. Cari amici, teniamo presente che non ci sono solo le fonti di energia non rinnovabili che stanno finendo, ma ci sono anche le fonti di energia spirituale che stanno finendo. Se noi non ci diamo da fare in maniera intensa per mantenerli. E il modo che io vi suggerisco è questo: oltre a far celebrare la messa per i defunti, portare i nipoti, farglielo capire, ma soprattutto parlargli del paradiso, dell'inferno e del purgatorio. Perché se non si parla di questo, un bambino dice: beh, perché devo venire a messa per il nonno? E allora spiegare che dopo la nostra morte solo i santi raggiungono direttamente il paradiso, sperando che nessuno vada all'inferno, speriamolo, perché muore in peccato mortale, gli altri che vanno in purgatorio domani sarà il nostro destino, pensiamo. Ecco, spiegare che per arrivare a vedere il volto di Dio definitivamente dobbiamo essere liberati dalle pene dovute ai nostri peccati. Sarebbe interessante sapere se ogni cristiano conosce la distinzione tra le colpe, i peccati e le pene, ma lo vedremo un'altra puntata.